l'esecuzione in proprietà dei programmi c'è anche nell'arte la possibilità di confondere figura e sfondo, che è un po' la chiave, la base di quello che è poi l'opera di Escher. Enrico, che è matematico, ci parlerà con delle sue vedete completamente sfasciati i colori della matematica dell'arte Bene, farò una breve esposizione in cui non ci sarà matematica, quindi state tranquilli, o almeno non molta. Sarà divisa in tre parti, si analizzerà prima le questioni sul PET-IT, assonometria e come Escher poi tratta la sorgenza, qualcosa sui ricoprimenti del piano, che poi ci condurrà all'ultima parte, che è la geometria non euclidea. La prospettiva, come voi sapete, è una tecnica pittorica che non nasce con la pittura, ma si sviluppa molto più tardi. Per esempio, chiedo perdono a Giotto, se vedete, purtroppo i colori sono leggermente diversi. Andiamo all'essenziale. Guardiamo all'essenziale. L'essenziale si vede lo stesso perché la figura è una figura molto chiara, qui prospettiva non c'è, però nonostante questo noi sappiamo riconoscere ciò che la scena rappresenta, nonostante la prospettiva sia completamente, da un punto di vista prospettico, questo dipinto sia completamente sbagliato. Se andiamo un pochino più avanti, dopo Giotto, troviamo Piero della Francesca, possiamo vedere questo dipinto, purtroppo non si vede molto bene, vi consiglio di andare a vedere perché tra l'altro sta nel museo più piccolo del mondo, nel quale esiste solo questa opera di Piero della Francesca e vale certamente una visita. Si trova a Monterecchi, provincia di Arezzo. Qui la prospettiva non si vede molto bene, però c'è. Se però guardiamo un altro famoso dipinto di Piero della Francesca, che è la Madonna di Montefeltro, cosiddetta, la Battaglia della Madonna di Montefeltro, la prospettiva c'è e come. Qui vediamo anche le figure che in Giotto erano affiancate l'una all'altra o messe su piani diversi, le vediamo anche messe a altezze diverse, dipinte con altezze diverse in base a questo sviluppo prospettico della scena che sta dietro. Quindi possiamo riconoscere chi sta davanti e chi sta dietro non tanto dal fatto che le figure si sovrappongono, ma da come sono disegnate. È essenziale quindi la prospettiva perché noi riconosciamo un'immagine. Beh, sarebbe lungo andare a discutere di che cosa sia un'immagine, come fa il nostro cervello a riconoscere in un'immagine, in una cosa disegnata, qualcosa che conosce già per altro motivo oppure che addirittura non conosce. Per esempio, con un'assonometria noi riusciamo a riconoscere essenzialmente ciò che, come questo oggetto, questo palazzo è situato nello spazio, sebbene sia un disegno completamente fuori dalla realtà, non rappresenta nulla di reale, però noi riconosciamo lo stesso che questo è un palazzo che starà da qualche parte e sarà appoggiato su un certo piano e si svilupperà in un certo modo. Non lo vediamo, ma ci crediamo. Ahia. Potenti mezzi non ci permettono di vederlo. Comunque è un'assonometria, non c'è niente di particolarmente complicato. Qui si dovrebbe riuscire a vedere, qui abbiamo Escher e una specie di assonometria anche questa. Chi l'ha già vista, chi la conosce sa come funziona, nella mostra probabilmente c'è perché è uno delle di Escher più famose, nella quale c'è una specie di prospettiva ingannevole, non si capisce. Come si vede, ci sono le colonne che sembrano davanti invece sono dietro, oppure che dovrebbero essere dietro invece sono davanti. C'è una scala che va dall'indietro nel davanti e dal davanti all'indietro, non si capisce come faccia a salire da una parte dove non c'è spazio. Abbiamo degli strani personaggi in tutta la faccenda, c'è un curioso particolare, l'omino seduto, che potete vedere seduto sulla panca qui sotto. Abbassiamo il contrasto. Forse abbassiamo il contrasto, non si vedono i colori, ma in particolare dell'omino seduto sulla panca, è un'altra curiosità molto carina. Questo personaggio tiene curiosamente fra le mani e esamina con curiosità un oggetto che è a sua volta un oggetto impossibile, come la scena in cui è. Quindi anche qua torniamo alla questione degli planianelli, è una scena impossibile con all'interno un particolare impossibile, ma che sembra reale. Un altro famoso strano anello, anche questo è famosissimo, ed è in realtà semplicemente un trucco prospettico. Non è tanto diverso da quei trucchi che in televisione ogni tanto fanno vedere spacciandoli per assurdi fisici, cioè la macchina che invece di salire, che invece di scendere sale, o la pallina che sale su una discesa. In realtà, naturalmente, si tratta di inganni dell'occhio. Ci sono, probabilmente non riuscirò a farli vedere perché con questa, a parte il tempo e con questo proiettore non verrebbe fuori niente. Nel sito ufficiale di Escher, che potete vedere facendo una semplice ricerca, esistono anche tre filmati, ce li ho qui, ma ripeto non li posso far vedere, in cui si fa una ricostruzione tridimensionale di questa scena e si capisce come funziona. In realtà questa è la visione da un certo punto di vista di un oggetto che è completamente diverso da come appare. Analogamente, salita e discesa è la scala che noi vediamo, salita e discesa, in realtà non è un petto unico. E l'illusione è creata esattamente dal fatto di vedere una connessione dove non c'è. Ma questa è un'esperienza abbastanza comune. Ogni tanto ci capita di cercare di prendere qualcosa in un posto che in realtà non è dove lo vediamo. Perché vediamo da un certo punto di vista qualcosa, mentre se ci spostiamo riusciamo a vedere che i due piani sono sfalsati. Non è facile fare un esempio, ovviamente su un disegno su carta viene molto meglio. E Escher usa appunto la nostra percezione delle immagini per ingannarci. Qui ci sono appunto, ci sarebbero i tre filmati, ma temo che la qualità sarebbe assolutamente impossibile da... Comunque si può vedere qualcosa, forse. Il filmato adesso farà vedere questo palazzetto, questo strano oggetto, e lo farà vedere da un altro punto di vista. E si comincerà a vedere come Escher riesce a ingannarci. Cioè, il nostro occhio vede delle colonne dritte quando in realtà sono degli oggetti, delle specie di spaghetti messi lì e disegnati che in realtà non potrebbero sostenere nulla. E quello che noi vediamo, l'illusione è completata dal fatto che i due pezzi della struttura sono orientati in maniera diversa l'uno dall'altro. Cosa che in realtà invece quando vediamo il disegno non ci appare. Qui c'è la cascata, possiamo vedere come anche questa vista dal punto di vista diverso apparirà una cosa completamente irragionevole, o meglio capiremo perché funziona. Qui si fa vedere appunto che è fatta di pezzi distinti. E come vedete non c'è effettivamente una vera cascata, i due pezzi si uniranno e forse riusciremo a vedere, eccola qua, come ora scende giù per la cascatella, ma a questo punto noi riusciamo a vedere, fermando l'immagine, che questi prolungamenti, queste cose che appaiono unificate, in realtà non lo sono. Analogamente per la salita e la discesa. Ricoprimenti del piano. Secondo filone delle opere di Escher, che ne ha parecchi, ma ne ho voluto esaminare solo alcuni. Tutti sappiamo ricoprire il piano con esagoni. Chi forse un pochino più anziano ricorderà certamente i pavimenti con le mattonelle di gres rosse, che sono esagoni. Ma naturalmente non è un'invenzione molto importante, perché lo sanno fare, perché no, le api costruiscono i loro alveari con esagoni. Perché? Perché l'esagono è il poligono regolare col più alto numero di lati che permetta di ricoprire il piano. E avendo il massimo numero di lati, ricopre anche la massima area possibile, con perimetro più piccolo possibile. Cioè le api si costruiscono gli esagoni, gli alveari con esagoni, con celle esagonali, perché così minimizzano sulla cera necessaria per costruire le strutture. Ci sono altri modi regolari per ricoprire il piano, e regolari vedremo più avanti come, in che senso regolare, ma questo si capisce che è un ricoprimento regolare. Come vedete c'è bianco e nero, figura sfondo forse, non si sa se i cani siano bianchi o neri e se siano due tipi di cani, bianchi e neri, oppure se sia un solo tipo di cane su uno sfondo nero, oppure se sia un solo tipo di cane nero su sfondo bianco. Ma questo ovviamente in Escher è ben noto. Qui i colori sono sfalsati, dovete pensare che ci sono gli uccelli gialli e i pesci di colore grigetto, mentre qui gli uccelli sono violetto, che vabbè, non si capisce. Anche questo è un ricoprimento regolare, nel senso che, che è periodico, se spostiamo questo ricoprimento ritorna a essere se stesso. Oppure ci sono ricoprimenti del piano che Escher varia, come in un'opera musicale c'è un tema che poi viene variato, le variazioni Goldberg, come ben noto chi le conosce sa, che richiamano forse un po' questo, abbiamo un'aria e poi la musica si espande in tutt'altra direzione, ma anche qui sopra, in cima a questo dipinto, riusciamo a riconoscere la struttura sottostante che è fatta di triangoli. Possiamo però ricoprire il piano in modo aperiodico. Uno che ci studiò parecchio è il famoso Roger Penrose, che usando due piccole figure particolari, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma la losanga e la freccia, credo, riesce a ricoprire il piano in almeno due modi, in realtà in parecchi modi, che sono aperiodici. Cioè, non c'è alcuna parte del piano che assomiglia a un'altra parte del piano. Non c'è nessun movimento del piano che riporta il ricoprimento su se stesso. Come gli esagoni, se noi spostiamo per una piccola traslazione, otteniamo la stessa cosa. Cioè, tutte le figure vanno a ricoprire una figura esattamente identica. Qui non è possibile. Escher, e qui lo vediamo, è capace di fare ricoprimenti aperiodici usando figure stravaganti nel suo stile. Abbiamo farfalle, abbiamo strani conigli con zampe da gatto o viceversa, abbiamo strani uomini, strani pesci, pesci martello, pesci non martello, draghi alati, elefanti di forma bizzarra, e questa è l'idea di essere di un ricoprimento aperiodico. Quando è che un ricoprimento è periodico? Beh, la definizione matematica, qui c'è l'unica parte veramente matematica, è periodico se ammette movimenti rigidi del piano che lo sono in se stesso. Gli esagoni si capisce benissimo. Se vogliamo che un ricoprimento formato da poligoni regolari, ne sono possibili tre, o triangoli, o quadrati, o esagoni, di più non si può. È abbastanza semplice dimostrarlo geometricamente. Se vogliamo però poligoni regolari anche diversi, ce ne sono parecchi e ne possiamo vedere qualcuno. Questo è un ricoprimento periodico fatto con esagoni e triangoli equilateri. Questo è un altro ricoprimento fatto con esagoni e triangoli equilateri, ma in modo diverso. È chiaro, la periodicità è abbastanza evidente. Questo è fatto da quadrati e triangoli. Questo è fatto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dovrebbero essere dodecagoni, quadrati e esagoni, tutti poligoni regolari, e la periodicità è abbastanza evidente. Ma che succede se cambiamo il nostro spazio? Cosa vuol dire cambiare spazio? Beh, nel 1830 appare l'opera di un articolo famoso di un tale Lobachevsky, Nel 1832 appare in appendice a un'opera del padre un articolo, una memoria di Bolyai, prima ancora, e la storia sarebbe lunga, Gauss, aveva pensato a qualcosa di pazzesco. Un problema aperto da oltre 2000 anni era se il postulato della parallela di Euclide fosse dimostrabile a partire dagli altri. Beh, non so, chi ne ha sentito parlare capisce, chi non ne ha sentito parlare, beh, si tratta di vedere se è vero che dato un punto esterno a una retta si può condurre un'unica parallela a quella retta. E il problema è aperto, sarebbe lungo spiegare perché Euclide non voleva usarlo proprio e avrebbe cercato di dimostrarlo a partire dagli altri postulati. Ma nel 1830 o giù di lì si comincia a pensare che questa dimostrazione non esista, perché questi due studiano il sistema geometrico che si ottiene negando l'unicità della parallela. Ma la parallela è unica oppure no? Beh, ci torniamo. Ottengono un sistema che appare privo di contraddizioni, ma come facciamo a sapere se è davvero privo di contraddizioni? Come possiamo sapere se, andando avanti nello sviluppo della teoria ottenuta negando il postulato del parallelo, otteniamo tanti teoremi stravaganti, strani, misteriosi, ma siamo sicuri che non otterremo mai una contraddizione, cioè la dimostrazione di un teorema e della sua negazione, di un enunciato e della sua negazione? A questo punto entra in scena Poincaré, che ha inventato, non è stato proprio lui che l'ha inventato, ma lui ne ha dato una traduzione veramente rigorosa, ha ideato un metodo formidabile, qui c'è scritto, per dimostrare che se la teoria, se la geometria euclidea è coerente, cosa di cui non abbiamo in realtà una dimostrazione, anche quella non euclidea è parimenti coerente. E lo fa interpretando i concetti della geometria in modo diverso. I punti del piano non sono tutti i punti del piano. Interpretiamo come punto ciò che sta all'interno di un dato cerchio. Il retto non c'è, non lo consideriamo. Le rette sono o diametri di questo cerchio, oppure archi di cerchio che siano ortogonali al cerchio dato, a questo cerchio fissato. Allora è abbastanza semplice dimostrare che dati due punti esiste una e una sola retta, dati due punti distinti, la retta che passa per questi due punti è unica. E gli altri postulati, la retta è infinitamente prolungabile, bisogna decidere che cosa sono gli angoli e così via, ci sono alcune questioni tecniche su cui sorvolo, ma è evidente che in questo modello della geometria esistono punti esterni a una retta, per esempio prendete questa retta che sta in basso a sinistra, prendete queste due che si incontrano qui dove c'è la manina, questa che viene da sopra e questa che viene da questa parte, sono due rette che passano per uno stesso punto esterno a una retta e che non incontrano la retta che avevamo. Quindi in questa strana geometria non vale il postulato delle parallele. Ma siccome questa geometria è ottenuta all'interno della geometria euclidea, se riuscissimo a ottenere una contraddizione nella geometria iperbolica, nella geometria non euclidea, ne troveremmo una anche nella geometria euclidea. Quindi se una è coerente, lo è anche l'altra. Che cosa vuol dire? Che non sappiamo quale sia la geometria? Beh, ci torniamo, ma che cos'è un punto e che cos'è una retta? In realtà noi non lo sappiamo. I concetti, la retta e il punto sono concetti e non oggetti fisici. Sono cose di cui ci facciamo una rappresentazione mentale, magari facendo dei disegni, ma sono semplicemente concetti e non sono oggetti fisici. Qui non c'è nessuna contraddizione al fatto che possiamo usare assiomi diversi. La geometria può servire a descrivere lo spazio in cui ci troviamo, ma non è un'intuizione a priori, come qualcuno diceva a suo tempo. E questa è la sconfitta del cartismo, ma vedremo. si può essere ovviamente in disaccordo con questo. La geometria euclidea è semplicemente una teoria matematica che può essere usata per descrivere lo spazio fisico, ma sempre con limiti, oppure si può fare in altro modo. Come diceva Roberto all'inizio, la relatività generale usa una geometria che è completamente diversa sia da quella euclidea che da quella non euclidea del Cherskia-Bodel. Che fa Escher? Che c'entra Escher con la geometria non euclidea? Escher è il primo artista non euclideo. Questo è un ricoprimento del piano iperbolico, del piano non euclideo, per dirlo da certi vogliari, con quadrati e triangoli. Lo possiamo vedere con... naturalmente non c'è, doveva esserci ma non c'era. Va bene, non c'è quello dopo. Questi strani pesci in realtà formano dei quadrati e dei triangoli. Naturalmente dovete ricordare che le rette del piano euclideo, o meglio l'interpretazione della retta del piano non euclideo nel piano euclideo, sono questi cerchi ortogonali e li potete riconoscere qui. Quindi queste sono tutte rette e questi sono quadrati e questi sono triangoli. E il fatto che questi diventino sempre via via più piccoli ha a che fare col fatto che la retta deve essere infinita e quindi le distanze non si misurano al modo solito e si rimpiccioliscono, o meglio, un oggetto molto distante dal centro del cerchio, un segmento molto distante dal centro del cerchio, sarà molto più lungo di quanto ci appare. Oppure abbiamo un ricoprimento del piano non euclideo fatto da esagoni che in ogni vertice incontrano a 4 a 4. Questi strani angeli e diavoli sono esattamente 6, se guardiamo questi vertici sono degli esagoni. E abbiamo un ricoprimento fatto da esagoni che si incontrano a 4, basta contarli. Ma come fanno a starci? Bene, ci stanno perché siamo in una geometria non euclidea e la somma degli angoli interni di un esagono non è la stessa che c'è nel piano euclideo. Se scegliamo un lato sufficiente, fatto bene, riusciamo a avere esagoni che hanno una ampiezza di angoli quella che ci pare, purché minore di un certo valore. Questo è lo stesso disegno ottenuto tramite un sito dove si parla di ricoprimenti del piano, è esattamente lo stesso, come si può immaginare, come si può vedere, fatto semplicemente in maniera astratta. Bene, si potrebbe andare avanti ancora quanto si vuole, procediamo verso l'infinito e questo è un altro, ovviamente famoso, disegno di Escher sul naso di Möbius con queste formiche che continuano ad andare avanti per sempre, sempre nello stesso.